Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Milano, 26 ottobre 1569. Attentato all'arcivescovo Carlo Borromeo. Milano, anno domini 1569. L'arcivescovo Carlo Borromeo, che oggi conosciamo come San Carlo, aveva una visione tutta personale della vita ecclesiastica. Niente sfarzo, ostentazione di ricchezza, bensì azioni caritatevoli verso gli altri. L'impegno civile e sociale di tutto il clero per aiutare la popolazione del Ducato di Milano, a quell'epoca sottomesso dalla Corona di Spagna, che si trovava in gravi difficoltà per via delle carestie, delle continue epidemie di peste e della stretta fiscale del governatore. Fra gli atti compiuti dal Borromeo per arginare il diffondersi della corruzione e dei soprusi da parte del clero, l'abolizione di numerosi ordini ecclesiastici, fra i quali quello degli umiliati. Una scelta difficile, contestata non solo dagli umiliati stessi, ma anche dalla Corona di Spagna, che grazie al Consiglio dell'Inquisizione spagnola aveva ancora le mani ben salde su parte del potere clericale che poteva essere esercitato nel Ducato. La conseguenza di questo braccio di ferro sfociò in un atto di cronaca che segnò profondamente la vita politica di quegli anni e diede i primi elementi per il processo di santificazione di Carlo Borromeo. Un ex frate umiliato, un avventuriero di nome Gerolamo Donato, detto il Farina, la sera del 26 ottobre 1569 attentò alla vita dell'arcivescovo. Carlo Borromeo era raccolto in preghiera nella piccola cappella dell'arcivescovado, insieme al suo segretario ed alcuni prelati di fiducia, quando Gerolamo Donato, forse aiutato da un complice, riuscì a introdursi nel palazzo. Raggiunse il Borromeo alle spalle e da una distanza non superiore ai 2 metri sparò a colpo sicuro. Il Farina era un tiratore scelto di cui si narravano le gesta, ma per qualche inspiegabile motivo il colpo d'archibugio diretto contro la schiena del Borromeo andò a vuoto, stampandosi contro il muro. Gerolamo Donato fuggì e l'arcivescovado, dopo gli attimi di terrore e di sbigottimento per il miracolo che era accaduto, incaricò un notaio criminale affinché venisse fatta luce sull'attentato e il colpevole fosse assicurato alla giustizia. Figura di spicco della magistratura milanese del Cinquecento, i notai criminali possedevano una spiccata propensione per le indagini criminali e, sfruttando metodi di investigazione che anche oggi parrebbero all'avanguardia, riuscivano a risolvere molti casi di omicidio e ruberie. Non si conosce il nome del notaio criminale che indagò sull'attentato, anche se il suo giovane assistente, Niccolò Taverna, divenne in seguito uno dei più apprezzati magistrati del Ducato. Insieme i due notai interrogarono i testimoni presenti, poi estrassero dal muro della cappella la palla di archibugio sparata alla Farina, un proiettile la cui fattura poteva essere solo di provenienza piemontese, il che li condusse ben presto nel Ducato di Savoia, dove interrogando gli ufficiali della guarnigione riuscirono a individuare l'archibugiere che si era assentato il giorno dell'attentato, Gerolamo Donato. Tradotto a Milano, il Farina venne consegnato al Tribunale di Giustizia e dopo un rapido processo, durante il quale almeno 2 testimoni lo riconobbero come l'attentatore del Borromeo, venne condannato a morte, insieme a 3 ex prevosti suoi complici, di cui il boia è riuscito a strappargli il nome. Gerolamo Farina salì sul patibolo nell'agosto del 1570, 10 mesi dopo l'attentato fallito al Borromeo. Tanto impiegarono età criminali per rintracciarlo con le loro indagini. L'anno successivo, Papa Pio V pubblicò una bolla di soppressione dell'Ordine degli Umiliati e incensò pubblicamente il lavoro svolto dagli investigatori milanesi. Francoforte, in libreria con Il segno dell'untore, la prima indagine del notaio criminale Niccolò Taverna. Mondadori, 350 pagine, 15 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!